E gentili ascoltatori, benvenuti a questa finale di Coppa dei Poteri Forti, che vedo proprio la squadra dei magistrati contro quella dei politici corrotti. Le vicissitudini che noi vi apprestiamo a raccontare vi giungono dal Palazzo di Giustizia di Milano, gremito in ogni ordine di posto per questa stessa sfida che vede scontrarsi le due fazioni più in forma del campionato. Il Palazzo di Giustizia di Milano, che è spostato per l'occasione in via dei Volsci al quartiere San Lorenzo, al civico 56. La serata è bella, il cielo è sereno, il clima è quello delle grandi occasioni. Ricordiamo anche il cammino che ha portato le compagini a giocare la finalissima, eliminando formazioni altrettanto blasonate. I corrotti hanno piegato i concussi, la banda Cavallero e i ricettatori di Monte Spaccato. A loro volta i magistrati hanno avuto ragione di Super Saiyan Tana delle Tigre e Capitan America. Ma passiamo ora alle formazioni. I magistrati in campo con il consueto 4-4-2 disposto dall'allenatore Francesco Saverio Borrelli, dunque uno schieramento abbastanza prudente. Vede Turone fra i pali, i terzini sono Davigo e Greco, centrali Colombo e D'Ambrosio, alla centro campo Bocassini, Di Pietro il fantasista, i laterali sono Giancarlo Caselli e Antonio Ingroia, le punte Tiziana Parenti e Paolo Ielo. A disposizione di Borrelli, Santorubo, Forleo Guarinello e il secondo fantasista Luigi De Magistris e lo straniero Henry John Woodcock. I corrotti schierati dal democristiano Giulio Anderotti con uno spavaldo 5-6-5, da questo si nota quanto siano pezzi di merda. Vedono De Mita in porta, citaristi Balsamo, Larini e Chiesa sulla linea difensiva, i centrocampisti sono Forlani, Gardini, Pacini Battaglia e Bettino Craxi, le punte Martelli e il capocannoniere Gianni De Michelis. A disposizione del secondo dell'allenatore, il secondo portiere De Lorenzo, Poggiolini, Cagliari, Pomicino, Romiti e il compagno, si fa per dire, Greganti. Scontri nel pre-partita tra le due tifoserie, gli ultras togati hanno lanciato in campo monete da 100 lire inneggiando Bettino vuoi pure queste. Non si è fatta attendere la risposta dell'ultras comando tangente, che ha intonato il coro: chi non salta toga rossa è. Ma adesso, caro Federico, è venuto il momento di ascoltare gli inni nazionali. L'inno dei magistrati all'armi Siam Vichinghi verrà eseguito da un gruppo di tradizione e distinzione, Fighters della Juventus, mentre l'inno dei corrotti Moni Moni verrà eseguito da una cugina sifilitica al terzo stadio di Laiza Minelli. Vi ricordo che la terna arbitrale composta dall'ungherese Sandor Pulco, adiuvato dai cancellieri Trinca e Cruciani con l'ausilio del quarto uomo, il ragioniere Tucci, verranno ora rispettati 10 secondi di silenzio in solidarietà per la scomparsa del grandissimo attore e artista Paolo Villaggio. E siamo partiti, i magistrati indagano da sinistra a destra del rettangolo d'indagine. I corrotti si muovono invece calpestando la Costituzione, la rogatoria ora sui piedi di Colombo, che serve la corrente Davigo sulla sinistra. Davigo fa suo il fascicolo, lo prolunga verso Antonio Di Pietro, che si è liberato del suo diretto avversario, vale a dire l'inchiesta a Brescia. E serve il centrale Greco, il quale ha di fronte a sé Pacini Battaglia, che lo attende con una dazione ambientale da 200 milioni e ci riesce, annulla la rogatoria, la palla è ora in mano alla squadra avversaria. Vediamo Battaglia che serve Bettino Craxi, che fa fuori Paolo Ielo, che vede smarcato il laterale Forlani, che viene servito proprio in questo momento. Forlani la gioca su Balsamo, il quale si accentra, prende tempo, stupendo il gioco di mani di Balsamo, che nega il reato, servendo Larini, il quale a sua volta serve Cagliari, che si propone sulla sinistra. Si chiude la retroguardia della magistratura, protezione della porta, difesa da Turone, parte un controcorrente per la Svizzera, ma Martelli viene anticipato dalla provvidenziale uscita di Turone, che fa sua la bustarella, rilanciando così la legittimazione d'inchiesta da parte della magistratura. Da queste prime battute si capisce come sarà sicuramente un processo lungo ed incerto. Lo commenterà insieme a me e Federico Luca Leoni Orsenigo, il capo gruppo della Lega Nord in Parlamento. Sì, grazie, sicuramente un processo lungo, sicuramente un processo incerto, che noi ci apprestiamo a elencare in tutte quelle che sono le loro procedure lunghe, di solito lunghe, eterne, quasi pachidermiche, qua di fronte al Palazzo di Giustizia di Milano, come dei Paolo Brosio qualunque, che vedono spesso la Madonna di Lourdes, sentono la sua voce. Ma ti ridò la linea, riprendiamo la telecronaca. Infatti c'è Antonio Di Pietro, che si libera molto bene nell'area grande dei Severino Citarristi ed effettua questa catalogazione informatica, che sorvola la traversa della porta difesa da Ciriaco De Mita. Il tutto va in prescrizione. Pare però che ci sia stato un occultamento di prove da parte degli avvocati della difesa. Infatti il direttore di gara Sandor Pool indica la bandierina della probatoria e difatti è così. Si appresta a battere lo stesso fuoriclasse molisano, il quale ci azzecca benissimo, interessante lo spiovente, ma l'avvocato Spazzali, spazza l'aria, riesce a liberare Forlani, la bavetta agli angoli della bocca di Forlani che fa fuori se stesso e un avversario si accentra, cerca un complice ma sono tutti in galera, prova a far partire un fendente pericoloso ma Turone è attento e fa buona guardia, direi primavera, occasione di latitanza per i corrotti questo tentativo di Forlani che esce non di molto dai tempi di depenalizzazione, la partita comincia a scaldarsi e Gerardo Colombo, l'intellettuale che ora manovra le indagini, esponente di Magistratura Democratica, vediamo che avanza sulla fascia, vede Tiziana Parenti libera alla serve, Parenti fa velo e la palla arriva a Pier Camillo Davigo, il leader di Magistratura Indipendente porta palla, mi preme ricordare, aprire una parentesi come Marco Pannella ma poi chiuderla, ricordare ai radioascoltatori le polemiche della stampa la quale ha accostato i magistrati iscritti ai movimenti alla nazionale di calcio scozzese, forse perché sono scarsi, ammetto di non sapere il perché, fatto sta che il pool ha dovuto dire in settimana una conferenza stampa per ribadire l'assoluta bontà dell'azione giudiziaria e l'indipendenza e la terzietà dei poteri dello Stato. Ma torniamo alla partita, vediamo che Paolo Ielo avanza sulla tre quarti, servito da Giancarlo Caselli, problemi per lui in settimana con le frange estremiste della Valle di Susa, Caselli ha promesso comunque di riscattarsi in campo, vediamo il suo spunto, fa partire un traversone ma De Mita esce dai pali e respinge coi pugni, l'indagine rimane nell'area piccola, vediamo che Balsamo prova a spazzare via, lo fa servendo inavvertitamente Bettino Craxi, attenzione perché il leader socialista è solo e davanti al porta del magistratura, attenzione perché Craxi non è marcato da nessuno, errore di valutazione da parte dei magistrati, Craxi ha di fronte a sé al civico 19 una dazione ambientale da 200 milioni, le monete non sono griffate dalla questura, attenzione Craxi ha di fronte a sé solamente Turone, lo salta, rete, ah, incredibile errore di valutazione da parte della magistratura, Bettino Craxi lasciato solo, libero di espatriare, senza documenti e di fronte a sé ha solamente Turone in groia che tra l'altro è fuori competenza, essendo lui assegnato alla procura di Palermo, lo dribbla molto bene e porta così in vantaggio la squadra dei politici corrotti, e sì, in effetti vediamo, davvero statista questa giocata da fuori classe del socialista Bettino Craxi nell'ottenere quei soldi, il colpo da Duomo Connection nell'uno contro uno con Turone che tra l'altro salta in groia, che come hai detto te giustamente Provenzali, e lui ha segnato la procura di Aosta, il tocco sotto sull'uscita dell'estremo difensore e la tangente da 200 milioni puliti senza ritenuta da conto, questo è importante dirlo, senza ritenuta da conto, va a depositarsi in fondo alla rete, magistrale contropiede da parte dei corrotti, la partita adesso direi che prende un'altra piega, sì in effetti prende un'altra piega, vediamo in effetti Craxi che ora va sotto la curva a prendersi il meritatissimo abbraccio dei tifosi, con lui il resto della squadra, anche il fisioterapista Ferrara, Brunetta che vediamo non ci arriva, prova con un rinforzo sotto i tacchi, latte in coce, Berlusconi, ci sono tutti, scoppia, attenzione in questo momento un fumogeno nello spazio riservato agli ultras paninari, faremo servizio d'ordine, ha dichiarato in settimana preventivamente il loro leader Enzo Braschi, ma ora è il momento dei meritatissimi festeggiamenti in tribuna VIP, ci sono tutti, da Gerry Scotti all'intero cast di Bim Bum Bam, il famigerato pupazzo rosa One, vediamo anche molto questo interessante per le fan, Mirko Satomi e Paul dei VIP che hanno interrotto il loro tour con Vasco negli stadi pur di stare vicino alla loro squadra del cuore, Garofani in campo, però attenzione, vediamo che nel frattempo l'arbitro si avvicina, l'ungherese Sandor Pool, e ammonisce il giocatore Larini, giocatore che milita nelle file dei politici corrotti per eccesso di festeggiamenti, ammonizione però vediamo subito ritirata grazie ai 100 euro infiscati infilati nel taschino della giubba arbitrale, vediamo che nel frattempo però Borrelli sta scorrendo i ripari effettuando delle sostituzioni, vediamo che esce fuori Tiziana Parenti che ci è apparsa effettivamente, dico bene Federico, molto spenta, polemiche in settimana per l'impossibilità da parte della Parenti di occuparsi delle tangenti del Partito Democratico della Sinistra, questa è una roba d'antan, come se questo pezzo fosse scritto nel 1995, ed esce invece, fa il suo ingresso in campo una persona molto apprezzata anche per quello che è successo quest'estate, una persona apprezzata soprattutto per questo clamoroso scambio, è costato molto il suo cartellino, stiamo parlando del magistrato, ex magistrato Luigi De Magistris, nel frattempo vediamo che il gioco riprende molto velocemente, inquadrato il presidente Mattarella che al termine del match consegnerà la coppa al vincitore, solo dopo si vedrà se firmare il decreto Biondi, con questo atto il presidente ha voluto dimostrare la sua assoluta imparzialità e terzietà nei conflitti tra i poteri dello Stato, e vediamo che nel frattempo è proprio il neo entrato Luigi De Magistris che tocca la sua prima rogatoria andando ad affiancare il molisano Antonio Di Pietro nella zona centrale del campo. Il molisano, dato ad Isernia, residente a Cinisello Balsamo, non è in forma per lui: 27 processi, 58 case a Brescia, assoluzione però per insussistenza di prove. Nel frattempo vediamo proprio Furlani e Gitaristi che cercano di cincischiare addormentando il processo, fanno melina i corotti pretendendo di difendere il risultato, ma è proprio Antonio Di Pietro che è più veloce di Balsamo. In questo momento riesce a impadronirsi dell'inchiesta, non chiude il fascicolo, entra nell'area piccola, è tornato però nell'area grande, costretto ad allontanarsi. In questo momento viene contrastato dall'ingegnere Mario Chiesa, attenzione perché arriva la guardia di finanza, le banconote sono contrassegnate, Di Pietro con lui prova a fare tutto da solo, viene messo giù in aria, vediamo cosa decide l'arbitro Pulla, attenzione, decide per decretare un calcio di rigore. Bellissima e insistita azione di Antonio Di Pietro, che ha avuto il merito di non chiudere il fascicolo sul Pio Albergo Trivulzio, e l'ungherese Sandor Pulla non ha avuto dubbi, così come la guardia di finanza, ed è stato fischiato un penalty, è stato fischiato un penalty, attenzione perché ci sono delle proteste da parte dei giocatori dei politici corrotti che stanno attorcigliando letteralmente l'arbitro come se fossero delle anaconde. Ma vediamo che Pull sta decretando e sta confermando quella che è la sua, si avvicina al quinto, al quarto, al sesto, al settimo, alla moviola in campo, si avvicina alla moviola in campo che decreta questo calcio di rigore. Quindi adesso, dopo pochissimo tempo dall'ingresso in campo di Luigi De Magistris, che sembra aver letteralmente cambiato il ritmo della partita, prelevato in estate dal Catanzaro, i Togati hanno rimesso e hanno la possibilità, anzi, di rimettere in piedi questa situazione che stava prendendo una brutta piega. E vediamo che proprio Antonio Di Pietro, proprio lui che ha avuto il merito di chiudere il fascicolo sul Pio Albergo Trivulzio, non ha avuto dubbi, è proprio lui che si incarica di battere il penalty. La rincorsa, forse per problemi di peso, non è una rincorsa molto lunga, il tiro di Di Pietro e la palla che entra, spiazzato De Magistris, ed è il pareggio dopo pochissimo tempo dall'ingresso in campo, spiazzato De Mita, dopo pochissimo tempo dall'ingresso in campo di De Magistris, prelevato in estate dal Catanzaro. La situazione ora in parità, e vediamo che è proprio Andreotti questa volta che fa la cosa speculare di Francesco Saverio Borrelli, ovvero prova ad effettuare anche lui delle sostituzioni, addirittura 4 sostituzioni. Si tolgono la giacca e la cravatta per indossare la divisa a strisce verticali della Juventus, con Umeretti al centro, Poggiolini, De Lorenzo, Pomicino e il compagno, si fa per dire, Greganti, quale si sa sono specialisti nella tangente rapida dal dischetto. Il divo Giulio vuole forse provare a vincere la partita entro i 90 minuti, non credo però ce ne sarà il tempo. Vediamo che il quarto uomo, il ragionier Tucci, e insieme all'aiutante Filini espongono la lavagnetta con i secondi di recupero, che sono 20. Ma torniamo all'azione, attenzione perché comunque la partita non è finita. Poggiolini, nel mentre prova a servire l'autore del vantaggio, ha marcato il suo nome nel tabellino dei marcatori, Bettino Craxi, l'autore dell'1-0, viene marcato, stretto dall'intellettuale Gerardo Colombo, la sua magistratura non è quella di quelli di altri, lo chiude Gerardo Colombo in fallo laterale, lo stesso Poggiolini che rimette in gioco, Craxi viene servito ancora, cerca di avere uno sbocco sulla destra, sulla sinistra, non ci riesce, Poggiolini però si avvicina, chiama e detta il passaggio, cerca un appoggio in questo momento Poggiolini e lo trova su Gianni De Michelis. Brutta oggi la prestazione di Gianni De Michelis, problemi e polemiche per lui, per le sue presunte notti brave nelle discoteche romane. Ma attenzione, attenzione perché proprio in questo momento l'arbitro Sandor Pull, l'ungherese Sandor Pull, fischia la fine delle ostilità. Diamo la linea alla pubblicità, ci risentiremo tra non molto per seguire i calci di rigore, ma ora spazio alla pubblicità, spazio all'ultimo album di Joe Squillo e Sabrina Salerno, che canteranno per noi il motivetto di festeggiamento per l'onomastico, il polsino sulla camicia dell'avvocato Gianni Agnelli. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiremo tra non molto per seguire i calci di rigore.